caso che tutte le consorterie, devono insegnare, devono far sentire la loro voce, guai atteggiamenti di reticenza o di divisione. Sui grandi settori non bisogna dividersi, bisogna dare dei segnali unitari che sono i segnali di tutto il popolo italiano che non può essere solidari con la politica.